Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. Allora, dopo una settimana di passione, ed è quasi un eufemismo, riferendosi a quella che si è chiusa, vediamo com'è iniziata questa settimana, ancora con due temi per quello che riguarda l'economia e la finanza che tengono banco su tutti. Il tema internazionale è quello di come l'America sta cercando di uscire e di traghettare il suo sistema bancario, soprattutto quello più legato alla banca d'affari, alla banca di investimento, fuori dalla palude in cui si è andato a ficcare in questi anni, con strumenti che stanno causando perdite miliardarie. Dall'altro invece un tema nazionale: come si esce dalla vicenda l'Italia, anche perché oggi ai nostri microfoni di nuovo il presidente dell'ENAC, che è l'autorità di controllo sul traffico aereo, ha detto: attenzione, o riceviamo rassicurazioni sulla cordata, sui conti comunque di Alitalia, o giovedì può essere che noi si levi la licenza, quindi la concessione a volare, perché mancano i requisiti. Manca un requisito soprattutto, non ha nulla a che vedere con la sicurezza, lo ha spiegato anche in questo programma Vito Riggio venerdì: manca il requisito della sostenibilità finanziaria, che deve essere di almeno 3 mesi. Questo non nei confronti di Alitalia, nei confronti di qualunque compagnia aerea, e serve anche per evitare che compagnie aeree improbabili, fragilissime da un punto di vista finanziario, volino sui nostri cieli. Questi due temi principali. Parleremo però anche di energia, perché abbiamo seguito, chi ha ascoltato la radio nel fine settimana lo sa, l'inaugurazione di un rigassificatore importantissimo a Rovigo, coprirà il 10% dell'intero fabbisogno italiano. Poi i temi, come sempre nel giornalismo, passano in cavalleria, vengono messi nell'armadio, ma io ricordo che insomma 2 anni fa facemmo puntate per capire come mai una crisi ucraino-russa stesse scatenando un problema di approvvigionamento del gas in Italia, e la risposta era sempre: attenzione, in questo paese sono stati bloccati, tra le altre cose, i rigassificatori, e ne parleremo. E poi chiaramente avremo anche un giudizio sulla domanda di fondo che molti di voi si pongono, ossia: al di là dei modi in cui verranno salvate e stanno venendo salvate le grandi banche d'affari americane, è la fine di un certo tipo di capitalismo? Non del capitalismo, anche perché sarebbe meglio parlare di capitalismi in questi casi, ma di questo tipo di capitalismo così basato sulla finanziarizzazione dell'economia, sulla leva finanziaria, meno sui prestiti tradizionali, meno sul rapporto con il cliente o con l'imprenditore. Una nota e poi partiamo con le notizie in breve. È vero, e va detto e va ricordato, che le banche italiane, vedremo se avranno qualche perdita da investimenti fatti in prodotti strutturati americani, ma le banche italiane, come la maggior parte delle banche europee, qualche eccezione in Germania, in Svizzera soprattutto, in Gran Bretagna, hanno risentito molto poco di questa crisi. Quindi il problema non è un problema di sistema bancario italiano, avranno altri problemi, ma sicuramente non questo. Il problema è di che cosa e che destino e che futuro ci può essere all'orizzonte per le banche d'affari, l'investment bank, anche perché oggi, come molti di voi già sanno, la notizia è delle 6 di mattina di questa mattina, la Federal Reserve ha deciso che Morgan Stanley e Goldman Sachs, che erano le due banche che ancora, tra virgolette, mancavano all'appello dei fallimenti dopo Bear Stearns e Lehman Brothers, non saranno più banche di investimento e d'affari, diventeranno banche tradizionali, anzi verranno trasformate in holding bancarie. In questo modo avranno la possibilità di ricorrere anche alla garanzia che c'è per qualunque banca tradizionale, ma dovranno rispettare i requisiti di capitale e di riserve delle banche tradizionali, quindi avranno un'attività, se mi permettete, più solida, probabilmente meno redditizia, ma anche con minori rischi. 349 238 6666 per i vostri sms. Alcuni di voi dicono: basta parlare dell'Italia, attenzione, lo so, i temi si trascinano, ma finché non capiamo cosa succede da giovedì in poi, mi dispiace, resterà un tema di estrema attualità. E le borse, prima delle notizie in breve, erano partite non male, anche perché la chiusura in Asia era stata buona. Addirittura Shanghai più 7,7, Hong Kong più 1,4, Sydney più 4%, Tokyo più 1,60. Poi l'America ha aperto debole, anzi adesso è debolissima, meno 1,5% il Dow Jones, meno 1,7% lo Standard & Poor's, e ovviamente il peggioramento si è riversato anche sull'Europa. Parigi meno 1,5%, Francoforte meno 0,8%, Milano perde l'1,2%, con alcuni titoli però che vanno bene, penso a 2A più 2,5, Finmeccanica più 2,3, come Tenaris, l'1,6 è il guadagno del Banco Popolare e un 1,4 quello di Terna, ma anche di Alleanza. Positiva anche Telecom, Unipol, Generali, Mediolanum e l'Espresso. Va male ST Microelectronics, perde il 6%, Atlantia il 5,4, Luxottica meno 5%, Lottomatica meno 4, Autogrill meno 3,5 e Bulgari meno 3,2, Prismian meno 3,1, Pirelli meno 2,6%, Banca Popolare di Milano meno 2,4, Parmalat meno 2,1, Fiat meno 2,1, Intesa meno 1,6%. Che cosa è successo? Per alcuni titoli c'è stato un effetto di effetto dollaro, cioè il dollaro si è indebolito oggi, l'euro è tornato a quota 1,46,7, vicino a quota 1,47, e non a caso anche il petrolio, come ormai sappiamo, ogni volta che l'euro si rafforza anche il petrolio rialza la testa, è arrivato a 109 dollari al barile, il livello più alto dall'8 settembre per quello che riguarda il mercato di New York. Le altre notizie. E sempre in tema di energia, oggi a margine di un convegno all'Asso Lombarda a Milano, il numero uno di Edison, Umberto Quadrino, ha detto attenzione che arriveranno i ribassi, lui si riferiva al gas più che alla benzina, e arriveranno i ribassi, però non scatteranno prima di marzo. Ascoltiamo la microfono della nostra Anna Marino. Le tariffe del gas seguono quelle del petrolio con distanza di diversi mesi, quindi nel momento di grande crescita del petrolio il gas è cresciuto molto meno, perché prende i 9 o i 6 mesi precedenti e quindi solo gradatamente prende l'aumento del prezzo del petrolio. Poi quando il petrolio scende succede il fenomeno inverso, noi stiamo ancora avendo l'ondata rialzista sul prezzo del gas che terminerà a febbraio-marzo dell'anno prossimo per poi avere l'ondata ribassista, quindi ci vuole ancora un po' di pazienza. Per quello che riguarda invece l'inaugurazione lo sabato scorso a Porto Viro, in provincia di Rovigo, del primo rigassificatore offshore al mondo, inaugurazione a cui ha partecipato anche il Presidente del Consiglio Berlusconi, ma il 10% è nelle mani di Edison, che però utilizzerà l'80% del gas prodotto. L'impianto invece è gestito anche, oltre che da Edison, da ExxonMobil, Qatar Terminal e Adriatic LNG. Ne parleremo dopo i mercati. Allora, dei mutui americani, o meglio di Goldman Sachs e Morgan Stanley, abbiamo detto non saranno più banche d'affari, infatti ne parleremo, scompaiono a questo punto le banche d'affari, le blasonate, le stelle, l'elite, come si consideravano, del mondo della finanza di Wall Street, perché insomma Bear Stearns non c'è più, Lehman Brothers non c'è più, Goldman Sachs e Morgan Stanley diventano qualcos'altro, alla fine resta JP Morgan, ma che da sempre ha avuto una doppia veste, banca d'affari ma anche banca commerciale, per cui delle vere e proprie leader e stelle di questo firmamento che si sta sgretolando non resta più nulla. Tra l'altro la Mitsubishi Financial giapponese quindi è pronta a rilevare il 20% di Morgan Stanley, e un'altra banca giapponese, Nomura Holdings, comprerà tutte le attività in Asia e in Pacifico di Lehman Brothers e caricherà a bordo anche 3.000 dipendenti della Lehman stessa. Ma le turbulenze di Wall Street stanno facendo tremare anche le organizzazioni no profit, da cui attività dipende, come molti di voi sanno, dalla raccolta di fondi di beneficenza. Perché? Perché le cose, come ha spiegato il direttore esecutivo di City Harvest, una grossissima associazione americana di non profit, stanno drasticamente cambiando nelle ultime settimane, stanno affluendo meno dollari e probabilmente alcune di queste organizzazioni no profit dovranno chiudere o fondersi. Nel 2007 complessivamente il mercato americano delle donazioni ha toccato la cifra di 300 miliardi di dollari. Ha parlato anche il presidente americano Bush dicendo che ci sono buoni progressi verso la legge di salvataggio, quella che varrà più o meno 1.000 miliardi di dollari, e quindi per 2 anni si possono depositare e congelare di fatto titoli a rischio, obbligazioni a rischio. Ha chiesto Bush al Congresso di non introdurre provvedimenti estranei, ha ricordato alla misura di legge, ha ricordato che tutto il mondo sta osservando l'America per capire come l'America uscirà da questa crisi. E in Francia la bancarotta di Lehman Brothers costerà alle banche francesi 1,5 miliardi di euro di perdite, lo ha previsto oggi il ministro della finanza francese Christine Lagarde. Ultima notizia, salgono anche oggi i tassi interbancari in euro, l'Euribor a 3 mesi è arrivato al 5,03%, poca cosa, era al 5,01. Allora, primo tema, anche oggi sviluppi più che tema, qui parliamo di aggiornamenti, di una vicenda che continua e che andrà a chiudersi a breve, mi riferisco chiaramente all'Alitalia e ai giorni contati per la compagnia di bandiera. Che cosa è successo oggi? Diamo la sintesi e poi andremo a svilupparlo. Da un lato il commissario straordinario Fantozzi ha pubblicato, l'Alitalia ha pubblicato il bando di gara con scadenza dal 30 settembre, aperto anche a nuovi soggetti. Chi volesse comprarsi l'Alitalia e i suoi asset può farlo fino al 30 settembre. Lo stesso commissario straordinario Fantozzi ha detto pagherò gli stipendi di settembre. E però Vito Riggio, e partiamo proprio da questo, il presidente dell'ENAC ha detto o c'è un piano entro giovedì oppure stop alla licenza di volo per Alitalia, riaperta la gara ed è quindi corsa contro il tempo per trovare altri possibili acquirenti. Ma il ministro Sacconi dice la CAI è l'unica alternativa al fallimento di Alitalia. Il ministro Matteoli ha aggiunto non c'è nessuna ipotesi Air France o Lufthansa allo studio o di fatto a noi nota. L'Unione Piloti ha rilanciato, presenteremo un'offerta, vogliono includere anche il TFR, mentre per quello che riguarda il Presidente del Consiglio Berlusconi è tornato a ridefinire il comportamento della CGIL come irresponsabile. Allora, andiamo con ordine perché la vicenda è articolata, partiamo dal fronte della sopravvivenza, quindi quella che in gergo si chiama l'operatività. Chiarissimo questa mattina ai microfoni di Alessandro Milan nel programma Viva Voce di Radio 24 il presidente dell'ENAC Vito Riggio: o c'è un piano o la licenza per motivi finanziari dobbiamo sospenderla da giovedì in poi. Il 2 settembre noi abbiamo avuto un incontro con il commissario che ci ha comunicato che nonostante la chiara crisi finanziaria esisteva un piano di risanamento connesso a un'offerta che era pervenuta. In base a questo il regolamento ci consente la discrezionalità, non l'obbligo, di rilasciare una licenza provvisoria in attesa che il piano di risanamento rimetta la compagnia nella condizione di liquidità necessaria non solo per motivi di sicurezza ma anche per l'affidabilità nei confronti dei passeggeri che acquistano i biglietti, dei fornitori, eccetera. Testualmente il regolamento dice la compagnia in ogni tempo deve dimostrare all'autorità di essere in condizione di fare fronte ai suoi impegni. Naturalmente adesso tutti sappiamo che questa offerta al momento è stata ritirata, io mi aspetto che il commissario oggi ci porti un piano di emergenza che preveda riduzioni di costi e possibilità anche di accensione di mutui se lo può fare, insomma una situazione finanziaria alla quale legare la licenza provvisoria, senza di che la licenza provvisoria non sta in piedi. Se non c'è un piano finanziario la licenza non c'è già più, nel senso che la licenza provvisoria è appunto un mezzo che intelligentemente il legislatore europeo mette a disposizione delle autorità di regolazione per consentire dei salvataggi, ma non può essere a tempo indeterminato. Nella mia valutazione personale, ma vedremo più tardi, il commissario nel giro di 3-4 giorni ci deve presentare un piano. Dopodiché, se questo piano è convincente, i nostri uffici devono sospendere il certificato e quindi non potrà volare. Allora, che cosa è successo? Lo scorso 2 settembre l'ENAC ha dato in maniera provvisoria la licenza dall'Italia per volare, come ricordava lo stesso Vitoriggio. Perché provvisoria? Perché si voleva in questo modo, diciamo, agevolare l'Italia nel processo di cessione, di diciamo, privatizzazione, chiamatela come volete, di acquisizione da parte della CAI. E quindi per 6 mesi si è detto tu puoi volare perché c'è un piano in discussione nel frattempo. Ora che il piano è saltato, non c'è più offerta, l'ENAC chiede delucidazioni perché la licenza è provvisoria e può essere revocata, come ha spiegato Vitoriggio, in qualunque momento. Le spiegazioni le vuole sul fronte dell'affidabilità economica e dice: forniteci o un'alternativa di un compratore o una linea di credito, un mutuo, un prestito, qualunque cosa che ci garantisca, come per tutte le compagnie che volano in Italia, che all'Italia ha 3 mesi di autonomia, altrimenti noi nell'arco di 3-4 giorni, può essere una settimana, no, dobbiamo revocare la licenza provvisoria. Ha escluso invece, sempre questa mattina, Radio 24 Viva Voce, il ministro Matteoli, che vi possa essere un nuovo prestito dello Stato dopo quello da 300 milioni che fu varato dall'uscente governo Prodi. Ma ricorderete, Prodi voleva darlo di 150 milioni, poi con la mediazione di Gianni Letta il governo entrante, quello Berlusconi, chiese un prestito doppio per avere più tempo per respirare e non dover affrontare la vicenda dell'Italia subito, diciamo, nella fase tecnica ancora dell'insediamento. Sentiamo Matteoli. C'è un solo modo per tentare di riaprire la possibilità che CAI acquisti all'Italia, che le sigle sindacali che fino ad ora non hanno firmato si decidono a firmare. Dopodiché il governo, allora solo a quel punto il governo può tentare di richiamare CAI, che come è noto ha ritirato l'offerta. L'ipotesi questo di un... che credo sia l'unica strada possibile. L'ipotesi di un nuovo prestito. Ma se il prestito che è stato fatto di 300 milioni di euro, c'era un altro governo, ma concordato con l'opposizione, questo, anzi, devo dire di più per onestà intellettuale, che il governo precedente voleva fare un prestito di 150 milioni e noi dell'opposizione dicemmo che era insufficiente e concordammo i 300 milioni. Non è assolutamente più pensabile che il governo possa fare prestiti. E poi Matteoli ha aggiunto che non vi è nessuna ipotesi pervenuta di offerte di Air France o Lufthansa. E tra l'altro ha detto l'unica ipotesi in pista resta quella della CAI, ma non è detto che se i sindacati dovessero accettarla la società guidata da Roberto Colaninno possa tornare sui suoi passi. Toccherebbe solo al governo il compito di convincerlo. Nel frattempo sul sito di Air Italia oggi viene pubblicata l'invito a chi volesse comprarsi Italia a porre la sua manifestazione di interesse entro il 30 settembre. Considerate le ragioni di necessità e urgenza, chiunque sia in grado di garantire la continuità nel medio periodo del servizio di trasporto, la rapidità dell'intervento, nonché il rispetto dei requisiti previsti, ivi compresi i trattati di cui è parte l'Italia, viene invitato a presentare manifestazioni di interesse per l'acquisto di uno o più rami di azienda di Alitalia Linee Aeree Italiane, Alitalia Airport, Alitalia Express, Alitalia Servizi e anche di Volare. E il commissario straordinario Augusto Fantozzi ha detto: se entro martedì prossimo, 30 settembre, non vi sarà un'offerta razionale per Alitalia, chiederò l'eventuale sospensione della licenza e non un'interruzione che sarebbe più dannosa. Per cui anche Fantozzi coi tempi più o meno la pensa come Vitoriggio. Vitoriggio dice 3-4 giorni, Fantozzi dice il 30 settembre, se non sono 3-4 sono 8. Se non è zuppa e pan bagnato, se non si trova un'alternativa, diciamo che per fine mese l'Alitalia, la licenza per volare, non ce l'ha più. Sentiamo Fantozzi. Ho riferito all'ENAC qual è la situazione. L'ENAC ha da valutare, dopo il venir meno dell'offerta CAI, la sussistenza di prospettive per la compagnia e a tal fine vuole una relazione che io farò avere entro giovedì, in base alla quale valuteranno quanto siano realistiche le possibilità di salvataggio in tempi ragionevoli. Dopodiché decideranno di conseguenza, tenendo conto che al momento io non ho offerte alternative e dunque non ci sono prospettive di salvataggio in tempi ragionevoli. Se verranno durante questa settimana, io le trasferirò all'ENAC, al governo, e le valuterò responsabilmente, dopodiché vedremo. Direi che fino alla fine della settimana abbiamo tempo, probabilmente avremo tempo, a questo lo dice il commissario, non lo dice l'ENAC, almeno fino a martedì prossimo, cioè il 30 è effettivamente oggi l'ultimo giorno possibile. Per arrivare al 30 sì, io pagherò, come ho detto più volte, gli stipendi il 27 e porteranno via gran parte della liquidità che c'è. Questo è il fronte dell'operatività, quindi della sopravvivenza. L'altro fronte è quello delle trattative sindacali e delle agitazioni in corso. A Napoli è ripreso dopo pranzo con forti difficoltà la situazione alla stazione di Napoli Centrale dopo il blocco dei binari attuato da oltre 150 manifestanti e ancora per quello che riguarda la vicenda dei lavoratori a terra c'è una lettera aperta ai passeggeri: continuate a volare con noi, continuate a volare all'Italia, una lettera aperta firmata da i dipendenti del gruppo Alitalia. E sul fronte del sì c'è anche una mobilitazione, per cui i voli sono regolari e per quello che riguarda Fiumicino non ci sono cancellazioni. Esiste appunto un fronte del sì che oggi ha manifestato che vuole accettare la proposta della CAI e grida allo sgomento per il fatto che le maggiori sigle dei piloti non intendono firmare per motivi strumentali, pur di fronte a 20.000 posti di lavoro a grandissimo rischio. E dopo il meteo e la pubblicità sentiremo invece che cosa rispondono i piloti. C'è una controproposta sul piatto, anche una quota del salario e il TFR. 349-238-6666 per i vostri sms. Non possiamo, visto che ne parliamo da settimane, tornare sul tema il ruolo dell'allora leader dell'opposizione Berlusconi nel far affossare la trattativa con l'Italia. Lo abbiamo già detto in tempi non sospetti, quella fu un'iniziativa politica in piena campagna elettorale, ognuno la giudichi come vuole, ma noi diciamo i sindacati, che in quel momento non sono espressione politica di uno schieramento dell'altro, devono fare gli interessi dell'azienda, avevano tutti gli strumenti per valutare se l'offerta del France fosse o no migliore. Siccome si alzò la Will per prima dal tavolo, ma la Will conta poco dentro l'Italia, ma le trattative furono interrotte quando i piloti, dopo un primo sì, dissero no perché non venivano tutelati i cargo, cioè, i sindacati si devono assumere la responsabilità del fatto che hanno fatto fallire una trattativa con Air France. È inutile dare la colpa, diciamo, sindacale a chi stava facendo bene o male che facesse attività politica di campagna elettorale. Un sindacalista mica risponde a un partito, risponde alle persone che rappresenta, quindi si assumessero loro le responsabilità. Già allora vi furono 300-400 dipendenti dell'Italia che manifestarono per l'offerta Air France. A chi poi ci chiede, ma insomma fate un sondaggio con gli italiani e vedete che la maggior parte la vogliono far chiudere l'Italia, sì adesso, poi se però fra una settimana non si riesce più ad andare a Napoli, a Roma, in Sicilia, se i voli sono intasati, se i treni non hanno spazio, poi lì l'opinione pubblica cambia anche idea. Attenzione, sarebbe meglio non arrivare al blocco dell'operatività dei voli all'Italia, perché c'è un problema anche diciamo di funzione che svolge l'Italia nel paese, non è solo il problema di tutelare i dipendenti di Alitalia. Concludiamo anche oggi la pagina di Alitalia con le dichiarazioni e le proposte dei sindacati. Vedo che alcuni di voi scrivono sul tema, scrivono alcuni di voi anche la classe politica deve rispondere delle sue azioni. Sì, ma ne risponde politicamente. Cioè, voglio dire, un partito politico in campagna elettorale può dire quello che vuole, non era al tavolo delle trattative, abbiate pazienza. I sindacati, i piloti devono spiegare perché fecero saltare l'offerta di Air France solo perché non c'erano i cargo, e i cargo non ci sono neanche in questa. Devono spiegare qual è la loro offerta alternativa. È inutile, diciamo, sempre ribalzare la palla alla politica. Uno in campagna elettorale può dire qualunque cosa, può dire che l'Italia deve essere completamente statalizzata, può dire che deve essere completamente privatizzata, che deve essere chiusa. Poi i sindacati in trattativa faranno gli interessi di chi li ha eletti, di chi li ha votati, cioè la loro rappresentanza, le persone che loro rappresentano. E su questo fronte già ricordavamo come vi siano a questo punto dei dipendenti dei sindacati che si riuniscono nel cosiddetto fronte del sì, oggi anche una contromobilitazione della componente dei piloti CIS, UIL e UGL che hanno firmato l'accordo quadro con la CAI, che appunto si contrappone al cosiddetto fronte del no, cioè di chi non vuole firmare. Allora, se il commissario straordinario Fantozzi ha detto guardate che non spetta a me confrontarmi con i sindacati, la trattativa dei sindacati è con la CAI, oggi tra l'altro i piloti hanno detto che presenteranno comunque una controfferta, una nuova offerta al commissario Fantozzi, in cui praticamente tra l'altro la posizione dell'ANPAC e la posizione dell'Unione Piloti, le due sigle che rappresentano i piloti, si sono unite in una sola associazione, e questa dichiarazione del presidente dell'Unione Piloti Massimo Notaro nel corso della conferenza stampa. Dimostriamo in maniera chiarissima che noi teniamo all'Italia, all'Italia e agli italiani, perché mettiamo il nostro contributo anche in denaro in questo progetto. Ci sembra che fino ad oggi la CAI abbia dimostrato di tenere soltanto ai soldi, che è legittimo dal loro punto di vista, ma i profitti che loro vogliono fare hanno detto chiaramente che sono molto più grandi di quelli che fa Lufthansa e di quelli che fa Air France. Quel modello hanno detto è sbagliato perché non produce abbastanza guadagno. Allora noi dimostriamo che teniamo alla nazione e adesso il governo faccia vedere altrettanto. Noi teniamo alla nazione, ce lo dimostra anche il governo, invece che attaccarci in continuazione che siamo dei bambini capricciosi, pare. Però ci sono 2550 bambini capricciosi che fanno i piloti, che si prendono delle responsabilità enormi e che fanno girare tutto il sistema del trasporto aereo italiano, accanto a qualche altro centinaio di bambini capricciosi delle altre compagnie aeree. Voglio dire una cosa. Abbiamo concordato con il comandante Berti, questa è una cosa che non sanno neanche i collaboratori più stretti, ANPAC e Unione Piloti saranno una sola associazione. Questa è un'anteprima assoluta anche per i nostri. ANPAC e Unione Piloti saranno una sola associazione. Di fronte all'attacco che si fa alla professione, noi ci riunifichiamo e saremo una sola associazione. Vabbè, questo fa parte anche delle logiche interne alla rappresentanza sindacale, ma non interessa capire poi che cosa prevede questa offerta. Allora l'ha raccontata l'altro leader dei piloti, uno per l'Unione Piloti è Massimo Notaro, l'altro è Fabio Berti, ambedue molto presenti in varie trasmissioni televisive in questi giorni, hanno messo in sostanza sul piatto parte della retribuzione e l'intero montante del TFR, pari a circa 340 milioni di euro e li mettono sul piatto per qualunque progetto serio e credibile per il rilancio di Alitalia. Sentiamo il presidente dell'ANPAC, quindi l'altra associazione dei piloti, Fabio Berti. Proprio spinti dalla volontà di salvare l'azienda, abbiamo deciso di produrre un altro sforzo che va a significare quanto a noi non interessano le nostre retribuzioni, a noi non interessa la parte economica, ma interessa la sopravvivenza dell'azienda. I lavoratori dipendenti dell'azienda, vi leggo un documento che le aziende del gruppo Alitalia, appartenenti alle tre categorie, piloti, assistenti di volo e personale di terra, sono disponibili a supportare qualunque progetto serio e credibile per il rilancio di Alitalia. Tengo a sottolineare qualunque progetto, esistente, non esistente. E a questo scopo mettono a disposizione quota parte della retribuzione e l'intero montante del TFR. E vabbè, vedremo, certo che c'è da chiedersi anche come mai questa proposta non sia arrivata prima nei mesi passati. Comunque, questa è la proposta che è arrivata dai piloti, se per il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi la grave irresponsabilità è dei piloti ma anche per della CGL, che hanno perfino definito gli imprenditori dell'accordo CAI dei banditi. Per il ministro Sacconi, oggi al margine di un convegno in Asse Lombarda, la CAI è l'unica alternativa al fallimento. Dobbiamo sperare che nei prossimi giorni si ricostruisca il filo del dialogo fra l'unica soluzione che conosciamo, la CAI e tutte le organizzazioni sindacali, nel rispetto di quelle organizzazioni che già hanno sottoscritto gli accordi. Lo sono per definizione e soprattutto lo voglio essere pensando all'interesse del Paese e di quei molti lavoratori che avrebbero una rioccupazione in luogo invece del purtroppo del fallimento, che sarebbe negativo per il Paese e ovviamente negativo per i lavoratori. Quindi voglio pensare che prevalga il senso di responsabilità in tutti. Il commissario ha fatto un avviso pubblico e peraltro il commissario ha già detto nei giorni scorsi che aveva sondato direttamente le grandi compagnie e che queste hanno declinato ogni interesse per l'acquisto di Alitalia, mentre hanno confermato interesse per partecipazioni minoritarie con la CAI. Ma voi parlate solo di Alitalia? Devo dire che questa domanda è arrivata più volte, come spesso capita quando un tema prende sopravvento. Ricordo domande simili sulla legge finanziaria, quando la finanziaria diventa la notizia del giorno per molti giorni. No, abbiamo parlato molto anche delle crisi finanziarie, delle banche americane, delle banche europee, della vicenda Mediobanca, ma insomma è chiaro che in queste giornate delle materie prime, del prezzo del petrolio, dell'euro, è chiaro che in queste giornate al di fuori dell'economia internazionale il tema dell'economia italiana è in questo momento all'Italia, anche perché a nessuno sfugge che il tema non sia solo un tema economico ma anche la rilevanza politica e poi sociale della vicenda. Comunque, per non scontentare nessuno, adesso i mercati. Allora, la borsa che ha perso un'occasione, per peccato, stavo per dire qualcos'altro, perché Parigi ha chiuso meno 2,3%, Francoforte meno 1,3%, Londra meno 1,3% e Milano ha perso 1,5%. Peccato, perché questa mattina le chiusure asiatiche erano state tutte molto buone, tutte molto positive, più 7% a Shanghai, più 4% a Sydney, anche a Hong Kong, più 1,6, 1,5 di rialzo in Giappone. Le borse europee si erano mosse anche bene a metà seduta e poi è arrivata l'America a raffreddare tutto. Il Dow Jones sta perdendo adesso l'1,92% e il Nasdaq il 2,23%, mentre l'euro si rafforza e si avvicina di nuovo a quota 1,47 con un conseguente aumento del prezzo del petrolio che è tornato ai livelli più alti dall'8 settembre oggi a New York. Oggi infatti New York è arrivato fino a $109 al barile. Andrea Fontana, Radio Cori, sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Che è successo? Perché viaggiavano abbastanza positive le borse europee fino a che non ha aperto Wall Street. Sì. Il rimbalzo è veramente durato un giorno e Wall Street ha, come dicevi, cambiato i destini di questa giornata di borsa. In particolare gli operatori hanno mostrato di non credere, almeno per il momento, al piano governativo, non credere in particolare alle condizioni di questo piano e soprattutto la discussione intorno al piano e gli effetti che il piano può avere sul debito degli Stati Uniti. Hanno avuto effetti macroeconomici evidenti, portando il dollaro nei confronti dell'euro sulla soglia del valore di 1,47. Gli effetti sul petrolio già li ricordavi, anche se ci sono state tensioni nigeriane e medio orientali che hanno contribuito ad alzare i prezzi del greggio, ed ecco perché la giornata ha rapidamente mutato direzione e umore. Non è bastata qualche buona notizia sul fronte finanziario, come l'ingresso della giapponese Mitsubishi UFJ Financial nel capitale di Morgan Stanley e Nomura anche. Esatto, e per appunto favorire il rimbalzo dei finanziari che negli Stati Uniti prima e poi sul finale anche in Europa hanno un po' appesantito tutti i listini insieme a tecnologici e al settore delle costruzioni. E devo dire che l'ingresso di Mitsubishi da un lato e Nomura dall'altro, Nomura si è comprata, ha annunciato che vuole comprarsi pezzi di Lehman Brothers, no? Tra cui 3.000 dipendenti assorbirà Lehman Brothers in Asia. Mitsubishi invece è pronta a rilevare il 20% di Morgan Stanley, ma è un altro tassello in questo spostamento dell'asse del potere finanziario mondiale, che è il rimescolamento delle carte che sta avvenendo con questa crisi. Pensate che insomma, i fondi sovrani ormai hanno la Merrill Lynch, tra l'altro ha dentro il Kuwait Investment Authority e il Korean Investment Corporation e l'Olaya Group dell'Arabia Saudita, in totale 6 miliardi e 600 milioni di capitale. Lehman Brothers è fallita perché i coreani non si sono comprati la metà delle azioni. Nel Bear Stearns era già entrato il fondo cinese Citic Securities e in Citigroup, che è la prima banca americana, sono già entrati Abu Dhabi, Kuwait, Singapore e l'Arabia Saudita. Cioè lentamente la crisi finanziaria americana sta facendo entrare i paesi emergenti, non solo i BRIC ma anche il Medio Oriente, dentro capitali, salotti buoni, insomma, la parte più prestigiosa della finanza di Wall Street. Allora, Andrea Fontana, si diceva particolarmente penalizzati oggi i titoli che lavorano con l'area dollaro, visto l'indebolimento del dollaro, Luxottica meno 4,5, Bulgari meno 3,5 come Autogrill. E poi ST Microelectronics e Atlantia che perdono rispettivamente il 6,4 e il 5,4. Sì, ricordavi tu appunto l'effetto dollaro anche sull'automatica, una società molto esposta su questo fronte, in particolare avendo una controllata molto attiva nell'attività di giochi e gestione delle lotterie statunitensi come GTEC. Infatti l'automatica ha perso il 3,7%, motivi diversi invece per quanto riguarda ST Microelectronics e Atlantia. Per quanto riguarda ST, una giornata nera sul fronte tecnologico, un po' in tutta Europa hanno sofferto molto anche Texas Instruments, ha sofferto Nokia, e quindi i colossi anche della telefonia hanno sofferto, e quelli che sono i principali titoli legati, società legate come ST Microelectronics ne hanno sofferto di conseguenza. Per quanto riguarda Atlantia invece, quello che sottolineano gli operatori è che chi aveva scommesso su titoli apparentemente sicuri, come appunto una società concessionaria dello Stato, quindi con un andamento di business piuttosto garantito, si è trovato poi ultimamente a dover liquidare le posizioni per la crisi dei mercati, e ha finito anche per quindi cedere pacchetti consistenti che aveva in questi titoli. Infatti oggi ha sofferto Atlantia, ha sofferto però anche Autostrade Torino-Milano, ha sofferto SIAS. Allora, altri titoli in questione, abbiamo visto Fiat perdere anche in maniera non terribile ma nemmeno trascurabile, se mi permettete, il 2,1%, il titolo va a 10,6 euro per azione. Sì, per quanto riguarda Fiat effettivamente è andata peggio del mercato, peggiorando anche nel finale. Hanno pesato anche le parole dell'amministratore delegato Sergio Marchionne, che ieri Chicago aveva parlato delle difficoltà in questo momento, in particolare della controllata americana CNH, che si occupa appunto di macchinari per l'agricoltura, e della difficoltà soprattutto legata al sistema finanziario statunitense, quindi le difficoltà di ottenere credito per le aziende e un aumento del costo del rischio, quindi per queste società. Questo ha portato un po' di malumore sul titolo e ha fatto perdere oltre il 2%, come tu ricordavi. Ancora sui titoli, Prismia meno 3,5, Popolare di Milano meno 2,8, Pirelli meno 2,3, Unicredit meno 2,3, Intesa meno 2,3, Parmalat meno 2,1, Monte dei Paschi meno 1,4, negativi oggi anche Eni ed Enel meno 1,1%, così come Geox meno 1,3, Ubibanca perde mezzo punto percentuale. Bene, invece A2A più 3,2, l'Espresso più 2,5, Seat più 2,2, Tenaris più 2,2, Finmeccanica più 2,1, Fondiaria più 1,8, Terna più 1,6, infine Saipem e Alleanza più 1,3, il Banco Popolare più 1,1, Mediolanum e Unipol più 0,90, mezzo punto percentuale lo guadagna anche Generali, rimbalzo quindi di Seat, ma A2A soprattutto guida la classifica dei titoli che più guadagnano oggi. Sì, per quanto riguarda 2A, oggi era attesa la riunione del Consiglio di sorveglianza che ha esaminato due iniziative industriali, fra cui ha votato appunto all'unanimità a favore della joint venture, della conclusione della joint venture con la Russia, con la russa Gazprom, e questo è stato riportato appunto pochi minuti fa dall'agenzia, dalla nostra agenzia, l'agenzia Radiocor, nell'attesa di queste decisioni e considerando anche il movimento in atto tra gli azionisti, le discussioni in atto tra gli azionisti sulla governance, oggi il titolo è stato il migliore dell'S&P MIB. Grazie Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore. In assoluto il migliore Eutelia più 26%, poi Negri Bossi più 14%, Anima più 10,7%. Il peggiore Edes meno 12,3, e poi Estima Electronics e le Fiat sulle privilegio, anche Azimut perde 4,7%. Adesso vi lascio al nostro GR, poi parleremo di questo rigassificatore che finalmente è stato inaugurato sabato scorso a Porto Viro in provincia di Rovigo e da solo riuscirà a garantire il 10% di tutto l'approvvigionamento di metano del nostro paese, 8 miliardi di metri cubi di gas all'anno. E poi torneremo su giudizio più di analisi su quello che sta capitando in America, la scomparsa delle blasonate banche d'affari che, come si direbbe con un gergo un po' poco finanziario, se la tiravano moltissimo e adesso invece sono state chi vendute, chi è fallita, chi è comprata, ma insomma non esistono di fatto più con l'operazione annunciata questa mattina dalla Federal Reserve, nemmeno Goldman Sachs e Morgan Stanley nella forma in cui le avevamo conosciute. Allora, dopo aver parlato dell'Italia, degli sviluppi, ossia l'offerta che è arrivata dai piloti che mettono sul piatto anche il TFR e parte dello stipendio, 350 milioni di euro, e dopo aver raccontato anche l'avvertimento del presidente dell'ENAC Vito Riggio, come già ricordava il nostro GR, attenzione, giovedì potremmo ritirare la licenza se non abbiamo la licenza provvisoria di volo all'Italia, se non abbiamo rassicurazioni, e lo stesso commissario Fantozzi non va molto più in là, dice entro il 30 del mese, quindi qualche giorno dopo, o arriva un'offerta, un piano, o se no sarò io stesso a chiedere la revoca della licenza. Adesso parliamo di, da un lato, della crisi finanziaria americana, ma dall'altro anche di energia. Perché? Perché oggi, in concomitanza con il rafforzamento dell'euro, il petrolio è tornato a rialzare la testa, è arrivato poco fa vicino a $110 al barile, l'euro si è rafforzato, è vicino a quota 1,47 in una giornata che per colpa di Wall Street ha visto le borse europee tutte chiudere in negativo. Ma di energia parliamo anche con una buona notizia ogni tanto su questo fronte, notizia fondamentale per l'approvvigionamento energetico del nostro paese. Eh sì, perché come vi hanno già raccontato nel fine settimana i nostri GR, sabato scorso al largo di Porto Viro, in provincia di Rovigo, è stato inaugurato il primo impianto, il primo rigassificatore offshore al mondo. Il rigassificatore serve per riportare il gas che arriva via nave liquefatto in forma appunto gassosa, rigassificato. Dalla primavera del 2009 produrrà 8 miliardi di metri cubi di gas all'anno, cioè produrrà, rigassificherà 8 miliardi di metri cubi di gas all'anno, pari al 10% di tutto il fabbisogno del nostro paese. 12 anni di progettazione, decine di autorizzazioni, e quindi dopo questo iter anche troppo travagliato e lungo, l'Italia avrà quindi un secondo rigassificatore dopo quello dell'ENI, costruito più di 30 anni fa a Panigaglia, vicino alla Spezia. L'impianto sarà gestito da Adriatic LNG, dalla Adriatic LNG, di cui fanno parte ExxonMobil, Qatar Terminal, che ne hanno il 90%, il restante 10% è nelle mani di Edison, però ad Edison andrà l'80% del gas rigassificato. Vantaggi e benefici li ha illustrati il numero uno di Edison, mi riferisco a Umberto Quadrino, intervistato a Portoviro dal nostro inviato Enrico Pagliarini. Questo è il vantaggio fondamentale dei rigassificatori, i gasdotti tipici sono rigidi perché danno un collegamento punto a punto tra paese produttore e paese consumatore. E il rigassificatore permette di importare gas da una pluralità di paesi produttori di gas, sempre che ci siano degli impianti di liquefazione nei paesi di origine. Il nostro rigassificatore ha un contratto di lungo termine con il Qatar, che fornirà la grande maggioranza del gas. Su 8 miliardi di metri cubi, 6,4 sono per la Edison e arriveranno dal Qatar. Il rimanente 20% è aperto al pubblico, quindi aumenterà la concorrenza sul mercato italiano, altri operatori potranno importare gas utilizzando il nostro rigassificatore. Quanti soldi sono stati investiti per costruire questo rigassificatore? Parliamo di circa 2 miliardi di euro, è una cifra imponente, è un prototipo, è il primo rigassificatore al mondo offshore e quindi ha tutti i costi di un prototipo. Farete altri rigassificatori? Ma noi abbiamo un secondo progetto a Rosignano, in Toscana, che attende ancora l'autorizzazione. Oltre a rigassificatori siamo molto attivi nella progettazione di nuovi gasdotti, cito due progetti, il Galsi che unirà l'Algeria alla Sardegna e attraverso la Sardegna alla Toscana, che porterà nel 2012 8 miliardi di metri cubi di gas algerino all'Italia, e l'IGI, l'interconnessione tra Italia e Grecia e attraverso la Grecia, la Turchia, la Georgia e l'Azerbaigian. Il gas che viene prodotto da questo rigassificatore a quali usi verrà destinato? Ma innanzitutto alle nostre centrali, noi siamo grandi consumatori di gas, poi alle imprese, alle famiglie. Questo per quanto vi riguarda, per quanto riguarda il sistema paese? Il sistema paese sicuramente ne beneficerà sotto vari aspetti. Innanzitutto ricordiamo tutti che negli ultimi 3 anni c'è stato il rischio di un blackout o di una carenza di gas nei periodi di punta invernale. Questa infrastruttura e appunto i potenziamenti dei gasdotti algerino e russo scongiureranno questo pericolo già a partire da questo inverno. La situazione sarà normalizzata e sicuramente dal prossimo inverno la situazione sarà tornata ad un livello di totale sicurezza. Secondariamente diversificazione delle fonti e quindi ripartizione del rischio. Noi siamo collegati alla Russia, all'Algeria, alla Libia e al Mar del Nord, quindi 4 tubi collegano l'Italia ai grandi paesi produttori. Questo è una nuova rotta del gas che quindi riduce il rischio geografico. E poi, lasciatemelo dire, maggiore concorrenza. Questa è la prima infrastruttura fatta non dall'operatore tradizionale che fino adesso ha fornito il gas all'Italia. Quindi maggiore concorrenza vuol dire vantaggi per tutti, consumatori, industrie e produttori di energia elettrica. E allora ben venga una buona notizia sul fronte dell'approvvigionamento, appunto visto che anni fa ci siamo occupati, un paio d'anni fa, proprio delle tensioni, del rischio approvvigionamento sul gas. Adesso le informazioni per chi è in viaggio e poi invece parleremo in maniera più, diciamo, d'analisi, di scenario, di quello che sta capitando in America. La notizia di questa mattina all'alba è che anche le due banche d'affari che mancavano all'appello in quello che era il blasonato mondo delle Merchant Investment Bank di Wall Street, mi riferisco a Goldman Sachs e Morgan Stanley, sono state di fatto cambiate, diventeranno le holding di carattere delle banche normali, di carattere non più d'affari, di investimento, e quindi finisce anche per loro l'attività nel mondo dell'investment e del merchant banking. Allora, mentre Nomura Holdings, grande banca giapponese, si sta comprando le attività asiatiche del Pacifico di Lehman Brothers, tra cui anche 3.000 dipendenti della fallita Lehman Brothers, e mentre Mitsubishi, altro gruppo finanziario giapponese, Mitsubishi Financial, è pronto a comprarsi il 20% di Morgan Stanley, oggi, o meglio a notte in Italia, si è saputo che la banca centrale americana ha accordato a Morgan Stanley e Goldman Sachs il cambio di status da banche di investimento a banche normali, a tradizionali banche e che potranno quindi rivendicare il sostegno del governo, che viene assicurato a ogni banca commerciale, ma dovranno a quel punto avere risorse finanziarie come le altre banche, depositi, insomma una solidità e anche regole e controlli molto più severi. In questo modo, secondo noi, si chiude il capitolo della storia delle blasonate banche d'affari americane, quelle che se la tiravano un po' e davano lezioni, giudizi, rating, analisi a tutto il mondo. Ce lo racconta Valeria De Rosa. Venerdì i bookmaker internazionali quotavano il fallimento di Morgan Stanley e Goldman Sachs a 2,50. Anche l'aggregazione era una possibilità offerta. In pochi giorni chi per lavoro puntava e giocava su operazioni finanziarie e industriali si è ritrovato ad essere l'oggetto su cui puntare. Insomma, si accettano scommesse sul futuro della finanza americana, un futuro nel quale per le banche d'affari pure e dure non c'è più posto. Sono cadute una dopo l'altra le grandi investment bank, i nomi illustri, le star della finanza, quelle che davano giudizi sugli altri, quelle sempre in cima alla lista perché come intermediari finanziari svolgevano attività di consulenza, realizzavano fusioni e acquisizioni e gestivano portafogli di non trascurabile ammontare. Gli sportelli, quelli no, quelli li lasciavano agli altri. La Federal Reserve ha dato via libera al cambio di status per Morgan Stanley e Goldman Sachs. Le due società potranno diventare banche commerciali. Dovranno sottostare a una normativa più rigida, ma potranno ottenere prestiti d'emergenza dalla Fed e soprattutto accettare i depositi di molti comuni cittadini. I depositi rafforzano e stabilizzano. Da tradizionali holding bancarie potranno diventare dirette concorrenti di colossi quali Citigroup, JP Morgan e Bank of America, le cosiddette ibride, perché uniscono attività di investment banking con quelle retail, e che comunque non sono uscite indenni dalla crisi, perdendo rispettivamente 40, 10 e 15 miliardi di dollari. Una mossa quasi obbligata per Morgan Stanley, le perdite registrate finora sono pari a 14 miliardi, 4 miliardi quelle di Goldman Sachs. Bisognava cercare di tenersi alla larga da chi è già caduto. La prima fu Bear Stearns, praticamente fallita e finita con un'operazione pilotata sotto il controllo di JP Morgan per 200 milioni di dollari. Poi è stata la volta di Merrill Lynch, perdite per 37 miliardi di dollari e un cavaliere bianco che si è materializzato il 15 settembre in Bank of America, che l'ha comprata per 50 miliardi. Lo stesso giorno la bancarotta ha travolto Lehman Brothers, un fallimento da oltre 600 miliardi di dollari. Professor Marco Vitale, economista, tra i fondatori dell'Arthur Andersen in Italia, autore di bellissimi articoli quando l'Arthur Andersen crollò, saltò per aria per via del crack della Enron. Buonasera. Buonasera. Allora, lei già ne scrisse ai tempi della Enron parlando di un problema di etica, e ne scrisse in un libro America Punta a Capo, un libro edito dalla Schiller Editori. Le chiedo, ma in questo caso l'etica c'entra poco? Cioè, nella vicenda Enron vi fu una commistione totale tra chi doveva dare i voti sul rating e magari ce l'aveva come cliente, tra Andersen che doveva certificare i bilanci e poi beccava i soldi da queste certificazioni come commissioni. Qui più che di etica, cioè, sono falliti gli strumenti stessi, non è che siano stati usati in maniera non etica, o sbaglio? Sì. No, ascolti, io quel mio libro parlava anche di etica, ma parlava della crisi del sistema istituzionale finanziario americano. Io allora scrissi: questa non è l'America che corre in avanti, questa è l'America che corre all'indietro verso gli anni 20, e identificai nell'investment bank uno dei punti critici del sistema, come del resto l'aveva identificato la commissione Volcker, che aveva avuto parole durissime su queste degenerazioni dell'investment bank. Io allora scrissi: ma quello che ancora non viene percepito con sufficiente forza è il grave conflitto di interessi tra analisti e gestori, e non viene percepito che questo conflitto di interessi è solo uno dei giganteschi conflitti di interessi che ruotano intorno a questi mostri che sono diventate le grandi banche di investimento. È questo mostro nel suo insieme che va ricondotto alla ragione e che deve essere riregolamentato e io credo segmentato seriamente. Mi scusi, adesso questi mostri non li abbiamo più, nel senso che è rimasto solo JP Morgan, che però già faceva anche dell'altro, non era solo banca di investimenti e banca che facesse operazioni e merchant banking. Le chiedo... La segmentazione non c'è stata, la riregolamentazione non c'è stata, e quindi il mercato ha fatto pulizia con la sua maniera dura e severa propria del mercato. Ma che queste investment bank fossero un punto critico e malato del sistema, a chi sapeva e voleva vedere era chiaro fin da allora. Un'ultima domanda, professor Vitale. Adesso quindi avremo, tra virgolette, un mondo migliore? Il mondo conosciuto nel capitalismo finanziario di Wall Street è finito, questo l'hanno capito anche sì. I Sassi. Avremo un mondo migliore, cioè le banche torneranno, anche con la decisione presa questa notte dalla Federal Reserve, a fare la banca, cioè quella che presta soldi, calcola il rischio, sviluppa anche un territorio, aiuta le famiglie con i mutui, aiuta le imprese a ingrandirsi, cioè la banca vera, come devo dire in Europa ancora molto spesso si fa. Quindi problema risolto? Problema risolto, è una pulizia, è un passo avanti, poi i problemi di questo tipo non sono mai risolti perché ci vuole sempre la vigilanza, la sorveglianza, che è venuta meno anche in Europa, perché l'UBS per esempio non è nel Milwaukee, e quindi non possiamo dire problemi risolti, è un passo avanti importantissimo. E su questo speriamo e abbiamo buone ragioni di sperare in un mondo migliore. Ecco, visto che lei ha assistito alla scomparsa dell'Arthur Andersen come la conoscevamo, adesso assiste alla scomparsa di Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lehman Brothers, Bernstein, nel modo in cui le conoscevamo, le chiedo, è la fine anche del ruolo di Wall Street come grande epicentro della finanza mondiale? Interi pezzi dei colossi americani, bancari americani, penso a Citigroup, ma non solo, sono stati comprati, e anche UBS in Svizzera, da fondi sovrani medio orientali, cinesi, certo, di Singapore, certo. Cioè, e si sta spostando l'asse della ricchezza, oltre che manifatturiera, quello già l'abbiamo capito, anche finanziaria? La risposta è ovviamente sì, stiamo assistendo a una ridistribuzione del potere finanziario in un mondo più pluralistico, con più centri di potere, e io credo che anche questo sia un fatto positivo e non negativo. Grazie per la chiarezza a Marco Vitale, economista e editorialista del Sole 24 Ore, autore del libro America a punto e a capo. Tra l'altro è un libro del 2002, non so se si trovi ancora in libreria, però devo dire che è abbastanza profetico per molti degli spunti presenti. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Vi do un ultimo aggiornamento dall'America: meno 1,7% il Dow Jones e meno 2,1% il Nasdaq. Da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.